passione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Celia, intanto, il fedore della fogna ha preso il sopravvento sulla puzza della nuvola radioattiva che si era infiltrata nei tombini ed è tornata la calma tra i sequestrati. Ma Carl Erit tiene tutti gli uomini topo in allerta perché dalla superficie non arriva nessun tipo di notizie. Un Tarspok per ogni cella viene inviato dal direttore per spiare i sequestrati per captare ogni segnale di rivolta. Non saranno più visibili ad occhio umano perché, approfittando della loro natura metà uomo e metà topo, i Tarspok camminano attraverso dei microtunnel scavati nelle mura. Non è la prima volta che gli uomini topo vengono utilizzati come delle vere e proprie microspie. Infatti, in passato, avevano spesso risieduto nelle mura degli appartamenti in cui abitavano i Refractarios. In questo modo si era evitato di installare le cimici nei soliti posti che i Refractarios oramai conoscevano a memoria e continuamente trovavano e distruggevano. I Tarspok che camminavano attraverso le mura e sotto i pavimenti erano una microspia in movimento continuo. Dove non bastavano loro o le condizioni erano più difficili, gli venivano inviate le truppe speciali Insect. Questa mattina questa unità era stata utilizzata nei decenni precedenti dall'esercito americano per distruggere le piantagioni di papavero da oppio, che erano delle vere e proprie miniere d'oro per i guerriglieri afghani. Le stesse industrie farmaceutiche americane finanziavano i guerriglieri anti-americani. Gli Insect erano un vero e proprio esercito di uomini insetti, di vario genere quindi, come per i loro colleghi, i Tarspok potevano essere presenti in qualunque luogo senza essere notati. Tutto il resto dell'unità di Tarspok del cacciere fognario, che non era di sorveglianza nelle mura, viene impegnata nella sorveglianza dei tombini. All'interno del cassone del furgone Alni, in compagnia di Beatrice che ha deciso di unirsi a Refractarios, inizia a rovistare dentro i pacchi contenenti tutto l'armamentario. Il Refractarios, facendosi aiutare dalla sua amica argentina, prende un sacchetto nero ed inizia a riempirlo di varie cose prese dai pacchi. Arrivati nelle vicinanze del quartiere futuristico di NAP 013, dove risiede tra l'altro il quartier generale dei Tarspok, Anni chiede ad Aki di accostare appena possibile in una zona meno popolata. Anni, non è il caso di fermarci proprio qui, a meno che non hai deciso di consegnarti ai Tarspok. Con un tono mezzo seccato, risponde Mark alla richiesta del Refractarius. No, non sono io il pacco da consegnare ai Tarspok, ammiccando un sorriso da furbetto, Anni strizza l'occhio ai due suoi compagni. Aki ferma il furgone accanto a una lunga distesa di siepi che nascondono quasi tutto il mezzo. Anni si affaccia dall'oblò del cassone e guardando i suoi amici esclama: cazzo, questa bomba se vera è una vera e propria affinità telepatica. E questa volta si lascia andare una risata più forte. Dopodiché, accettato che non c'è nessuno nelle vicinanze, prende il sacchetto nero che aveva riempito pochi minuti prima e scende dal furgone approfittando della portiera laterale che è quasi appoggiata alla siepe di alloro. Ancora un altro sguardo per vedere se ci fosse qualcuno nei dintorni e poi, infilatosi sotto la siepe, lega il sacchetto nero a metà tronco della pianta in modo che non fosse visibile. Con una bomboletta di vernice spray disegna un punto nero appena fuori la siepe e poi si infila nel furgone di nuovo. Ok, possiamo andare ora al rifugio per mettere qualcosa nello stomaco. Sì, risponde Aki. Però tra un boccone e l'altro ci rendi partecipi del tuo piano. No problem. Dopo l'ennesima risata di Anni, il furgone riparte in direzione Vesuvio. A Porto intanto sono atterrati gli elicotteri provenienti dall'area nord. Ad attenderli c'è mezzo esercito di Tarspok che si apre in un corridoio che viene attraversato da Navig. Un'auto nera lo attende a fine corridoio. Il generale si siede accanto al guidatore e ordina di correre immediatamente alla torre M. Arrivati ad una decina di metri dalla torre, Navig, che ha un'ansia di rientrare al più presto, scende dall'auto che ferma al semaforo sotto l'occhio stupefatto dell'autista e degli uomini di scorta che sono seduti dietro e lo rincorrono per coprirgli le spalle. Il vecchio grassone corre per le scale fino al terzo piano, dove c'è il suo ufficio. Arrivato nel suo covo, si lascia cadere sulla sedia e posto dietro alla scrivania, che a malapena lo regge. Dopo aver preso e bevuto mezza bottiglia d'acqua minerale gassata, dalla scrivania si fa passare il telefono dal suo guardaspalle. Nel giro di pochi minuti riesce a contattare tutte le autorità Tarspok di NAP 013 per una riunione d'urgenza alla Torre M. Nel giro di un'ora tutto lo stato maggiore dei Tarspok è seduto nella sala conferenza intorno ad un grande tavolo tondo di vetro. Qualcuno degli elicotteristi ha avvisato anche i media Tarspok dell'orrore che hanno visto nell'area nord. Ma questi ultimi non possono entrare nella sala riunioni e così iniziano ad affollare col passare del tempo l'ingresso della Torre M. Dopo appena mezz'ora di riunione in cui Navig racconta ciò che ha potuto vedere insieme ad altri, viene mandato un grosso contingente di Tarspok appena fuori dall'area nord. Qualche media Tarspok munito di telecamera segue i blindati per capire meglio cosa sta accadendo. Intanto i Refractarius e Beatrice sono arrivati a destinazione. Al loro arrivo, gli altri Refractarius restano insospettiti dalla presenza della ragazza insieme agli altri tre loro compagni. Anni, guardando negli occhi dei suoi compagni, fa un gesto con le mani come per tranquillizzarli. Non è un'estranea, la conoscete tutti, Beatrice, e sapete che ci si può fidare. quindi niente visi sospetti, lei da oggi è con noi. Anni, è vero che la conosciamo tutti e sappiamo che ci ha aiutati tante volte, ma la prossima volta preferiremo decidere insieme certe cose. La voce proveniente da dietro un cespuglio è quella di Gent, un vecchio refrattario, insomma. Gent, qui non siamo comunisti, non abbiamo bisogno di un soviet per decidere alcune cose su cui possiamo essere d'accordo tutti. Anni, nessuno si riferiva ai soviet, e non Davide comunista che a 50 anni e passa posso ancora spaccarti quella testa di cazzo che ti ritrovi. Le parole di Gent sono accompagnate dalla risata grassa dello stesso refrattarius, che in un attimo rilassa gli animi e innesca le risa generali. Beatrice viene accolta da due donne refrattarius, Atin e Rose, che l'accompagnano a visitare il rifugio. Allora, radiazione 19 maggio 2014, abbiamo iniziato come di consueto con la lettura del racconto Nazero 13. Oggi giornata di letture su radiazione, quindi oltre alla controinformazione ci sarà la lettura come di solito, come sempre, del romanzo scelto da noi, perché voi non li scegliete, non ci consigliate, quindi li scegliamo noi. Stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey. E quindi siamo arrivati già alla metà del libro. Oggi, dopo gli indirizzi, ascolteremo un brano e poi dopo Marcello vi farà un piccolo riassunto che per introdurvi nel prossimo capitolo, nel nuovo capitolo del libro. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@dici.org per la mail, per chi vuole mandarci qualsiasi tipo di scritto da pubblicare su radiazione, ovviamente sotto censura del sottoscritto che decide se poi pubblicarlo, qualsiasi tipo di scritto, non è vero, mandate gli scritti che bene o male possono essere affini a radiazione, quindi così evitiamo una vega della censura, rivendichiamola come censura, perché così si pubblica solo quello che ci sta bene. Allora, invece il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete ascoltare i podcast delle dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione, dove potete scaricare anche un po' di libri, opuscoli, cd dalla sezione download, leggere le puttanate del cosiddetto movimento anarchico nella pagina dello scrigno. Esistono pure gente che riempiono tale pagina e quindi è ovvio dargli spazio, anche se non sulla home page dove ci sono le notizie più serie, a meno un raccoglitore che raccoglie tutte le loro perline. Allora, invece la radio trasmette su anarchia.net, il server messo a disposizione al comando di Anarchist Library, che salutiamo sempre. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Yes Breaker con il brano Verrucht. L'ho letto bene, Verrucht. Benissimo, Verrucht. Verrucht. E poi dopo si torna qui e Marcello ci fa prima l'introduzione e poi attacca con il nuovo capitolo di I Sabotatori di Edward Ebbing. È da stamane che non ci preoccupiamo, è un lunedì come tutti i lunedì con un cielo grigio topo, perlomeno con tutti i crismi, la pioggerellina c'è stata, grigio Tarspok, e ci aspettiamo che a un certo punto la diretta cada, E che tra le 5 e le 6, e mi raccomando, quando cade non abbandonate, ma ritornate immediatamente sul banner e ricliccate ascolta la diretta d'azione, perché noi siamo qui e qualcun altro si farà il sangue amaro. Adesso noi ritorniamo nelle pagine dei Sabotatori, questi quattro personaggi che stiamo seguendo: Smith, Seldon Smith, Hydak, il dottor Doc e Miss Habzug, che hanno deciso di passare ad una forma di azione diretta contro la devastazione ambientale in quelli che sono gli Stati Uniti centrali della metà degli anni 70. È un romanzo evocativo, come tutti voi che ci ascoltate, e noi abbiamo avuto modo di sorprenderci per l'attualità di alcuni racconti e per l'affinità di alcune descrizioni che vengono fatte da queste pagine. Siamo arrivati in un momento in cui il gruppo si divide. Seldon Smith e George Hydak continuano a scandagliare, a esplorare queste contrade dei canyon degli Stati Uniti centrali alla ricerca di obiettivi, mentre Habzug e Doc Seldon sono andati a fare un po' di acquisto di equipaggiamento ad Albuquerque, dove il dottore vive e quello anche che finanzia tutta la banda. Ma adesso siamo a un momento in cui il gruppo si riunisce e passano nuovamente all'azione, sempre cercando di sottrarsi agli occhi curiosi, fin troppo curiosi, della repressione statale fatta di ranger, di polizia, di esercito e di repressione parastatale, ovvero sia di quelle bande paramilitari, di irregolari, di padroncini, di vescovi, di preti, di commercianti, di ben pensanti statunitensi, che si riuniscono in questo libro sotto il nome della squadra di recupero e soccorso. Il braccio del Kraken. Ispezionando l'obiettivo, i quattro temerari scesero giù dagli altopiani di Betatakin, giù dai boschi di ginepro e dalle gobbe di arenaria, fino all'autostrada della Black Mesa Junction. Miss Habzug, detta anche Bonnie, era al volante, perché non si fidava di cedere a nessuno la guida della nuova stravagante, costata $9,955, Buick Station Wagon di Doc. «Che macchina, Doc?» aveva detto Smith. Doc aveva fatto spallucce. «Beh, è un mezzo di trasporto come un altro». Parcheggiarono al bar del raccordo, a dispetto dell'obiezione di Bonnie, per un caffè e per fare il punto della situazione. Bonnie considerava poco intelligente farsi vedere in un luogo pubblico così vicino alla scena del loro possibile obiettivo. «Adesso noi siamo dei criminali», dice, «dobbiamo cominciare ad agire come dei criminali». «Questo è giusto», disse Doc accendendo il suo secondo sigaro della giornata. «Ma George ha bisogno delle sue sostanze, del caffè, della birra». «Merda», disse quello, Hydak. «La prima cosa è fare il nostro cazzo di lavoro e togliere il culo da qui». Bonnie lo fissava attraverso la vista del proprio naso e della sigaretta. Quella mattina era adorabile, fresca come una primula, i grandi occhi viola che mandavano riflessi di esuberanza e buon umore. La sua chioma folta e flagrante prendeva i toni delle castagne abbrustolite, proiettando lampi di rame scozzese. «Perché», disse lei, impalando il rozzo Hydak, nel raggio della sua occhiata laser e della sua sprezzante indifferenza, «perché», soffiando cerchi di fumo sulla faccia irsuta di lui, «perché non riesci a pronunciare una frase intera senza condirla di volgarità?» Smith allora se la rideva. Hydak, sotto la barba e la pelle abbronzata, sembrò arrossire. La sua era una smorfia un po' imbarazzata. «Beh, merda, cazzo, non lo so, immagino, beh, senza parolare, parolacce io non riesco a parlare», fece una pausa. «Senza parolacce io credo che faccio perfino fatica a pensare». «È esattamente quello che temevo», disse Bonnie. «Sei uno storpio verbale, usi le oscenità come grucce, le oscenità sono le grucce per le menti storpie». «E che cazzo», disse Hydak. «Esattamente, affanculo, vedi?» «Vabbè, adesso basta», disse Doc, «pace. Adesso, amici miei, dobbiamo lavorare, la mattina se ne sta andando». E chiamò la cameriera, ottenne il conto, prese il portafoglio e tirò fuori la carta di credito. «Paga in contanti», mormorò Hydak, «paga in contanti». «Hai ragione», disse Doc. Fuori si aprirono un varco tra moltitudini di autentici turisti, grandi lavoratori e grappoli di autentici indiani nulla facenti per raggiungere la grande auto nera con la targa della California. California? Durante le prime ore del mattino, Hydak e Bonnie avevano preso in prestito le targhe anteriori dalle automobili dei turisti di 3 differenti stati e le avevano attaccate temporaneamente ai loro stessi veicoli, supponendo naturalmente che la perdita non sarebbe stata notata per centinaia di chilometri. Con Bonnie alla guida salirono per la strada che conduceva al bordo della Black Mesa. Da un vantaggioso punto, vicino alla strada, armati di binocoli, esaminarono lo schema del sistema di trasmissione carbonifero. Verso est, oltre le creste ondulate sulla superficie della mesa, si stendevano le miniere a cielo aperto in continua espansione della Peabody Coal Company. 4.000 acri, terra di pascoli di prima qualità per pecore e vacche, erano già stati sventrati. Altri 40.000 erano stati dati in concessione. Il locatore era la Nazione Navajo, rappresentata dal Bureau of Indian Affairs, sotto la giurisdizione del governo statunitense. Il carbone veniva estratto da gigantesche pale elettriche da scavatrice con benna strisciante, la più grande delle quali aveva una capacità di 100 metri cubi. Il carbone veniva quindi trasportato con i camion per una breve distanza a un deposito di lavorazione dove veniva selezionato, lavato, immagazzinato, una parte caricata in una linea di fanghiccio per una centrale elettrica vicino al lago Mojave nel Nevada, il resto su un nastro trasportatore collegato alle torri di immagazzinaggio alla testa della ferrovia BM&LP, che a sua volta portava il carbone 130 km più in là alla centrale Navajo, vicino alla città di Page. Smith e Hydak erano particolarmente interessati al nastro trasportatore che sembrava proprio l'anello debole della catena. Correva per 30 km dalla miniera alla testa della ferrovia. Per gran parte del tratto il nastro appariva vulnerabile. Correndo vicino al terreno, metà nascosto da ginepri e pini senza sorveglianza. Verso il bordo della mesa degradava fino al livello dell'autostrada dove riprendeva a salire sopra l'autostrada e fin sulla cima dei 4 silos di immagazzinaggio. Il nastro correva su rulli, l'intero apparato era azionato elettricamente. Stavano seduti e osservavano quel potente motore in azione che trasferiva una media giornaliera di 50.000 tonnellate di carbone, facendole passare attraverso la mesa e giù fino alla pianura e di nuovo su dentro le torri. 50.000 tonnellate ogni giorno per 30, 40, 50 anni, e tutto per alimentare la centrale elettrica Page. Penso, disse Doc, che queste persone facciano davvero sul serio. Beh, non sono persone, lo corresse Smith, si tratta di un animale meccanico. Stavolta ci hai preso, concordò Doc, non abbiamo a che fare con esseri umani, siamo contro la mega macchina, una mega macchina megalomaniacale. È facilissimo, disse Hydak, è già tutto pronto per noi. Useremo quel cazzo di nastro trasportatore per far saltare le torri di carico. Non avremmo potuto fare di meglio, guarda. È così dannatamente semplice che mi rende quasi nervoso. Tiriamo fuori la nostra merda nel bosco laggiù, vicino al nastro, gliela mettiamo sopra, accendiamo la miccia, la copriamo con un po' di carbone e lei passerà da sola sopra l'autostrada ed entrerà nella torre. Kabam! Come fai a calcolare i tempi giusti? Questa è la parte matematica, dobbiamo calcolare la velocità di questa cosa, misurare la nostra distanza dalle torri, calcolare di quanta miccia abbiamo bisogno. A me sembra abbastanza semplice. Supponiamo, disse Doc, che ci sia qualcuno che lavora in quelle torri di caricamento. È un rischio, cazzo, che però dobbiamo correre, disse Hydak. Dobbiamo? Chi dobbiamo? D'accordo, non ci sarà nessuno in quella torre, ma telefoneremo comunque alla compagnia e gli daremo magari 10 minuti per levarsi dai coglioni. Mi sembra più che onesto. Silenzio. Il più leggero degli zeffiri carezzava l'erba ai loro piedi. C'era un odore nell'aria, un certo odore, un odore metallico, pungente. Non sono del tutto convinte, disse Smith. Anche a me non piace, disse Hydak. Avrei un fottio di robe da fare, piuttosto dimentichiamoci questa dannata cosa, andiamo a pescare giù a West Horse Creek, dimentichiamoci Black Mesa. Lasciamo che se la che se la futta la compagnia carbonifera, chi gliene può fregare se da qui a 5 anni non si riuscirà a vedere per chilometri attraverso il Grand Canyon perché l'aria sarà fottuta da queste nuove centrali elettriche del cazzo. In ogni caso, preferirei essere a raccogliere aquilegie in montagna sopra telluride. Perché diavolo dovremmo preoccuparci? Lo so, ma non mi piace giocare l'aria con gli esplosivi, disse Smith, perché poi qualcuno potrebbe farsi male. Nessuno si farà male, a meno che non comincino loro a spararmi addosso. Far saltare le cose è un crimine e anche un reato federale, dico bene, Doc? Sì, è giusto, confermò Doc. E inoltre, sbuffando costantemente sul suo lungo marsh wheeling e guardando di sottecchi attraverso la nuvola di fumo, prima Hydak, poi Smith, poi di nuovo Hydak, e inoltre è impopolare, crea una brutta immagine, delle cattive pubbliche relazioni, perché tutti, sai, tutti pensano che l'anarchia non è la risposta. Doc ha ragione, dice Smith. Maledetto mormone, disse Hydak, perché non te ne torni al tuo paese, i tuoi SUV del cazzo, stronzi dell'ultimo giorno? Tu non puoi insultare la mia religione, rise Smith. Non c'è modo di farlo, inoltre quello che voglio dire è che non penso sia una buona idea, la dinamite intendo. Beh, è pericoloso, disse Doc, potremmo uccidere qualcuno, potremmo rimanere uccisi anche noi, non sono buone pubbliche relazioni. Hanno già provato di tutto, borbottò Hydak, hanno provato con le vie legali, con le campagne di propaganda del cazzo, con la politica. Ma di chi stai parlando? Degli opi più anziani, il movimento americano indiano, il comitato di difesa delle Black Mesa, e tutti questi qua con i tipi, con il cuore in pezzi, ben pensanti. Beh, allora prova a ragionare, fa Smith, non sto dicendo che dovremmo andarcene. Ma dico che non sono sicuro che ci serva quella roba che ti porti sul sedile posteriore sotto i loro sacchi a pelo. Io dico che potremmo far deragliare il treno del carbone con un paio di cunei d'acciaio. Possiamo tagliare le recinzioni, lasciare che cavalli e pecore invadano le rotaie per pascolare. Possiamo prendere la McCulloch di Doc e segare i pali della linea elettrica lungo i binari ferroviari. Così li fermeremo. Va elettricità o sbaglio? Possiamo segare la linea elettrica fino alle miniere a cielo aperto, anche quelle scavatrici con le zampe da papero alte 10 piani vanno all'elettricità. Raccogliere gli 8 km di cavo di prolungamento che c'è qui in giro, possiamo fare un paio di buchi nei loro trasformatori con il cannone del vecchio George e lasciar colare il condizionatore d'aria. Possiamo lanciare qua e là qualche ceppo su quel nastro trasportatore e fare un po' di macello. Ma non mi piace la dinamite, non ne abbiamo bisogno. Listen and see. E questi erano Absurd Minds con il brano Deficit Mindset, dopo la prima lettura per oggi dei Sabotatori di Edward Ebbey. Ora si passa alla controinformazione. Si passa alla controinformazione con un testo rivendicativo che arriva dalla Grecia, da Atene in particolar modo, dove sono stati attaccati 66 bancomat. Leggiamo il testo rivendicativo senza fare alcuna introduzione che non serve. Viviamo in un'epoca in cui lo Stato sta diventando sempre più totalitario, autoritario e sfruttatore. Non si avvolge più nel mantello dello Stato sociale, ma mostra piuttosto il suo vero volto, uno strumento di oppressione e di dominio, un esponente istituzionale del potere borghese, un garante della schiavitù del salario e del predominio classista dei padroni. Lo Stato attacca ogni parte della società che resiste ancora, ogni parte classificata come a margine o un corpo estraneo, con persecuzioni, incarcerazioni, torture, esecuzioni, lavoro forzato, divieto delle proteste di piazza con la paura. Questo attacco include la recentemente introdotta proposta della riforma del codice penale, una proposta di legge che cerca di trasformare le già deplorevoli condizioni di reclusione in tuttora ancora peggiori. Un nuovo disegno di legge che crea carceri dentro le carceri, riducendo congedi, limitando le comunicazioni e le visite, promuovendo e premiando le spie tra i carcerati, determinando le pene detentive più severe e ulteriori sanzioni punitive, e imponendo la tortura psicologica e fisica. Nello stesso tempo, sia all'interno che all'esterno delle carceri si svolgono le lotte contro questo nuovo regime di incarcerazione e contro le condizioni speciali di detenzione, momenti di negazione e di lotta contro il monopolio dello Stato sul potere. Da parte nostra abbiamo voluto collegarci a queste lotte esprimendo la solidarietà con i detenuti, così abbiamo contribuito a modo nostro alla lotta polimorfa per un inasprimento della guerra sociale e di classe, mettendo fuori uso i seguenti bancomat nelle prime ore del 1 maggio 2014. Galazzi, due bancomat della Banca Nazionale della Grecia, uno della Banca del Pireo e uno della Banca della Alfa Bank. A Ghizzi, uno della Banca del Pireo e uno della Alfa Bank. Ad Agia Paraskevi, uno della Banca del Pireo. Olargos, uno della Banca Nazionale della Grecia. Ad Anu Patrissia, uno della Banca del Pireo. A Poligono, uno della Banca Nazionale della Grecia. A Moarussi, due della Banca Nazionale della Grecia. A Kipseli, uno dell'Eurobank. E forse qualcuno non aveva sentito, perché ovviamente non abbiamo potuto finire la lista di rivendicazioni degli attacchi fatti nei 66 bancomat il 1° maggio di quest'anno nella zona di Atene. E dicevamo appunto che ci appena sono finito di leggere, abbiamo detto una cambia la connessione, invece è accaduta proprio prima mentre si leggevano i 67 anni. Vi assicuriamo che noi non ce la chiamiamo, non siamo noi a fare questa cosa, non ci piace essere martiri, però si è capito i momenti in cui abbiamo dei dubbi, abbiamo dei dubbi, e ripetiamo anche che sul sito trovate la fine della rivendicazione dei compagni che hanno fatto questi attacchi nella zona di Atene il 1° maggio del 2014. Ricordiamo anche che su tutto il nostro, diciamo, la nostra penisola, quella che comunemente viene chiamata Italia, noi chiamiamo un pezzo di Europa verso il sud, ci sono tanti sportelli bancomat che stanno aspettando di la dicitura game over, assolutamente non insert coin ma take some coins. Qualche volta ci proviamo, la connessione ricadrà, però noi invitiamo chi ci ascolta a insistere, a tornare sul banner, a ricliccare e a seguirci. Adesso torniamo. È una guerra personale, Roma. Non sappiamo più che cosa fare, veramente. Abbiamo augurato di tutto. Però di mentre più gli altri si avvelenano a farci capire con adesso, noi ci facciamo una grossa risata alla faccia loro. Alla faccia loro, e soprattutto loro spenderanno tutto in medicine, noi che non ce ne viene niente, non spenderemo nulla, ma ne acquistiamo di anni di vita a fare radioazione. Eravamo in un momento in cui i nostri quattro sabotatori del romanzo di Edward Abbey stavano discutendo se fosse il caso o meno di usare la dinamite o altri metodi per intervenire su questo grande mega macchina, megalomane, mega maniaca dell'industria carbonifera. C'era chi voleva tra di loro utilizzare una dinamite da mettere sopra il nastro trasportatore verso i depositi, c'era chi invece diceva non usiamo la dinamite ma rompiamo la struttura elettrica che alimenta questa cosa per non rischiare di ammazzare nessuno. Adesso vediamo come va a finire questa discussione. Allora votiamo, disse Haidak. Che ne dici, Doc? Votiamo. Non voglio nessuna votazione, rispose Doc. Non ci sarà nessuna tirannia della maggioranza in questa nostra piccola non organizzazione. Procederemo sul principio dell'unanimità. Quello che facciamo, lo facciamo tutti insieme oppure non lo facciamo. La nostra è una fratellanza e non un'assemblea legislativa o un soviet, aggiungiamo noi. Haidak guardò Bonnie in cerca di sostegno, la sua ultima speranza. I suoi occhi immobili restituirono lo sguardo, ridusse in poltiglia la sua sigaretta, fissandolo. Non sto dicendo che sono assolutamente contrario, riprese Smith. Sto solo dicendo che non sono davvero sicuro. Merda, disse Haidak girandosi verso Smith, stai dicendo che saresti disposto a compiere dei crimini ma hai dei dubbi sulla nostra capacità di fare il lavoro bene. Questo stai dicendo, Seldon. No, George, sto dicendo che dovremmo stare attenti a quello che facciamo. Non possiamo farlo bene se lo facciamo male. Haidak alzò le spalle, chiaramente disgustato dalla discussione. Ascoltarono il rombo continuo del trasportatore di carbone, le urla del traffico sull'autostrada, lo sferragliare lontano della ferrovia elettrica. A est, a 15 km di distanza, la polvere delle miniere saliva verso il cielo, oscurando il sole del mattino dietro un'immensa macchia di particelle grigio carbone e marrone terra. La pausa minacciava di trasformarsi in paralisi e così Bonnie Miss Hapzuk parlò. Uomini, esordì, perché è questo che siete. Cristo santo, abbaiò Haidak, uomini! In questa cosa ci siamo insieme, nel bene come nel male. Abbiamo già fatto quanto basta per finire dentro a vita se ci beccano. Allora io dico, andiamo avanti e usiamo tutto quello che ci serve, tutto quello che abbiamo. Smith sorrise. un po' tristemente, a quel piatto di delizie con le guance rosse, gli occhi brillanti, il culo pieno, sperduta qui, esiliata per sempre dal remoto Bronx newyorkese. Con i suoi jeans oggi attillati, quei pantaloni lisi e ormai piccoli e sbiaditi in una trama soffice come flanella che l'avvolge come una seconda pelle in ogni curva desiderabile, troppo, troppo. Le ragazze, penso a Smith, oh, quelle ragazze del college, un giorno indossano la minigonna e ci mostrano l'inguine, il giorno dopo i pantaloni fino all'anca e ci mostrano l'ombelico, maledizione. Un uomo non può sopportare tutto questo, bisogna tornare a Bountiful, Cedar City, Green River, là, là da dove vengono le mie di palle. Bonnie, dice scuotendosi dal sogno, intendi dire usiamo la dinamite? Lei lo benedisse con il suo sorriso più dolce. Quello che va bene a te? Smith raggiunse la temperatura di fusione. Tesoro, darling, dice, io sono sempre dalla tua parte, io sono tutto per Abzug, dalla A alla Z. Ok, per l'amor del cielo, interviene Haidak impazientemente. Adesso stiamo parlando d'affari, Doc. Amici, attaccò Doc, io non credo al governo della maggioranza, questo lo sapete, e non credo nemmeno al governo della minoranza. Sono contro tutte le forme di governo, compreso il buon governo. Io approvo il parere della comunità che abbiamo qui, quale che sia, ovunque possa condurci. Finora abbiamo seguito la nostra regola cardinale, nessuna violenza contro esseri umani. Osservatela, quella pianta, la verbesina Enceliodes, in piena fioritura laggiù, sotto quell'altra piantina, il Juniperus osteosperma. E che erba è quella? Chiese Bonnie. Vuoi dire il monosperma, Doc? Disse Smith. Guardala bene. Doc Service abbassò gli occhiali e diede un'altra occhiata. Ah, ma certo, certo, quella è monosperma, devi avere ragione, ignorantello mio. Il fogliame non è così fitto, le bacche sono grandi e marrone. Va bene, diamoci una mossa, disse Haidak, ammollando un pugno non troppo gentile sulla spalla di Bonnie. Si diressero a est attraverso la macchia per dare un'occhiata alle operazioni in corso alla miniera. Entrarono e uscirono dalle paludi passando per i pianori ricoperti di salvia, sfilando davanti alle tende Navajo con le loro aperture, come di consueto, in faccia al sole del mattino. Incrociarono un gregge di pecore guidato da un bambino a cavallo, poi verso la nuvola di polvere che si stagliava contro la luce, il vasto casino delle grandi macchine. La prima cosa che videro furono le creste della terra rovesciata, banchi, spogli in formazione parallela, cumuli di pietre e terra ribaltata che non avrebbe più potuto nutrire le radici dell'erba, dei cespugli o degli alberi, nel tempo che sarebbe trascorso fino alla liquidazione scomparsa e tradimento della nazione Navajo. La cosa successiva che videro fu un apripista Euclid con la cabina alta 6 metri che torreggiava sopra di loro, i fanali accesi, il fumaiolo che emetteva i fumi neri del diesel, la tromba acustica d'aria che muggiva come un dinosauro ferito. Al comando c'era un agricoltore sradicato e impolverato, con lo stomaco in subbuio e i reni in disordine. Nell'Oklahoma o nel Texas orientale, la cui vita preziosa era appesa al servosterzo, che li fissava attraverso occhiali da sole opachi, un respiratore coperto di polvere che gli pendeva dal collo. Bonnie portò la grande automobile fuori strada appena in tempo per salvarsi la vita. Dopo aver parcheggiato all'ombra del riparo di un gruppo di pini, la gang armata di binocoli raggiunse a piedi la collinetta più vicina. Ciò che videro da lì sarebbe difficile da descrivere in qualsiasi lingua terrestre conosciuta. Bonnie pensò a qualcosa di simile a un'invasione marziana, una guerra dei mondi. Al capitano Smith venne in mente la miniera a cielo aperto, la più grande del mondo, vicino a Magna, Utah. Il dottor Sarvis pensò alla pianura di fuoco e agli oligarchi, agli oligopoli che ci stavano dietro. Peabody Coal, solo un braccio del Kennecott Cup. Kennecott, solo un arto di United States Steel. US Steel, invischiata in un abbraccio incestuoso con Pentagono. TVA, Standard Oil, General Dynamics, Dutch Shell, IG Farben Industrie. L'intero cartello spiaccicato su metà della Terra come un Kraken planetario, dai mille tentacoli, gli occhi strabici e il becco da pappagallo, il cervello, una banca di centrali date computerizzate, il sangue, il flusso del denaro, il cuore, una dinamo radioattiva, il suo linguaggio, il monologo tecnotronico di numeri impressi su un nastro magnetico. Ma il pensiero di George Washington Haydack fu il più chiaro, il più semplice. Haydack pensò al Vietnam. Cercando di scrutare attraverso la polvere, il ruggito, il movimento, riuscirono ad individuare uno scavo profondo circa 60 metri e largo il doppio, lungo un miglio, chiuso su un lato da un filone di minerale dove le potenti pale alte 10 piani, come aveva detto Smith, scavavano la terra. Strappavano la roccia fossile alla sua matrice di terra arenaria, la scaricavano a colpi di 10 tonnellate nei cassoni degli autocarri. Oltre la prima macchina, in uno scavo più lontano, videro la punta di un braccio di gru, i cavi e la puligia di un altro invasore alieno al lavoro che penetrava in profondità, scomparendo quasi alla vista. A sud videro un'altra macchina ancora più grande. Non rotolava sulle ruote come un camion o su cinguli a movimento perpetuo come un trattore, ma camminava un passo alla volta verso il suo scopo. I piedi erano un paio di piastre d'acciaio che somigliavano a delle chiatte, più o meno delle stesse dimensioni. Si sollevavano uno dopo l'altro su ruote eccentriche dentate, rotolavano in avanti, si piazzavano a terra e il ciclo si ripeteva. Camminando goffamente in avanti come un'anatra, l'enorme struttura di sala macchine, cabina di controllo, chassis, superstruttura, gru, cavi e benna per il minerale, straorzava da una parte all'altra come una fabbrica ambulante. La macchina era alimentata elettricamente mentre avanzava una squadra separata di uomini e reggeva il cavo elettrico dal suo ombelico, una prolunga spessa come la coscia di un uomo, attraverso cui vibravano i volt che facevano girare i motori nella sala macchine. Su coefficiente ai suoi costruttori piaceva esagerare per illuminare una città da 90.000 persone. La squadra del cavo, quattro uomini con il camion, faceva in modo che il cavo non si ingarbugliasse e trascinava l'unità con il trasformatore montata su una slitta in ferro, tenendo il passo della macchina ben trascinata. Una scavatrice gigante, la gemma dell'Arizona. Ma noi siamo così piccoli, pensò Bonnie, e loro così grandi. E cosa ci facciamo con quella? Chiese Haydack sorridendole con i canini bianchi che mandavano riflessi attraverso la polvere. Perché al bruto l'intuito non fa difetto, pensò Bonnie allegramente sorpresa. Pensa un po', lui intuito, minchia, l'ho detto ad alta voce. Tornate alla linea ferroviaria attraverso nuvole di polvere che coprivano la strada ondulata, seguirono il serpente immobile con l'intestino peristaltico, il sistema di trasporto del carbone, il nastro infinito. Haydack osservava ogni curva e variazione, tutte le palude, gole, burroni, fenditure e letti in secca, ogni macchia di ginepri e boschetto di querce lungo il corso dell'impianto. E mentre osservava faceva i suoi piani. Il dottore stava pensando: tutto questo sforzo fantastico, macchine giganti, reti stradali, miniere a cielo aperto, nastri trasportatori, tubazioni, linee di fanghiccio, torri di caricamento, ferrovia e treno elettrico, centrali elettriche che bruciano centinaia di milioni di dollari, 16.000 chilometri di tralicci dell'alta tensione e cavi elettrici, la devastazione del paesaggio, la distruzione delle case degli indiani e dei loro pascoli, dei santuari indiani e dei loro luoghi di sepoltura, l'avvelenamento dell'ultimo serbatoio di aria pulita nei 48 Stati Uniti, l'esaurimento delle preziose riserve d'acqua, tutto quel lavoro rompicoglioni e tutte quelle spese, sfasciaschiene e tutto quell'insulto spezzacuore alla terra, al cielo, al cuore dell'uomo, per che cosa? Perché? Per accendere i lampioni dei suburbi di Phoenix, non ancora costruiti, per far andare i condizionatori d'aria di San Diego e Los Angeles, per illuminare i parcheggi dei centri commerciali alle 2 del mattino, per fornire elettricità alle fabbriche d'alluminio, alle fabbriche di magnesio, agli stabilimenti di vinil cloruro, ai forni del rame, per caricare i tubi del neone che danno il senso, e tutto il senso è qui, a Las Vegas, Albuquerque, Tucson, Salt Lake City, le metropoli amalgamate e diffuse della California meridionale, per tenere viva quella gloria fosforescente e putrefatta, tutta quella gloria rimasta chiamata Downtown Nighttime Wonderville, città della meraviglia, USA. Parcheggiarono per un istante vicino alla linea ferroviaria. I binari piegavano in un grande arco attraverso Navajoland verso la centrale elettrica di Page, 100 km oltre l'orizzonte. I binari, assicurati alle traversine di cemento, erano collocati in una carreggiata di trappi fumanti e frantumati. Sopra le loro teste si trovava una sorta di linea tranviaria ad alto voltaggio appesa a traverse di legno, pale elettriche, linea di trasporto, ferrovia. Ogni componente del sistema richiedeva elettricità. Ah, nessuna meraviglia, pensò Bonnie. Nessuna meraviglia che avessero dovuto costruire una nuova centrale elettrica per fornire energia alla centrale elettrica che era la stessa centrale elettrica che la centrale elettrica riforniva. La magia degli ingegneri del recupero. Vedi che cosa intendo, dice Hydak. Semplice come la merda. Piazziamo una carica qui, una carica là, srotoliamo una trentina di metri di miccia, prepariamo il detonatore, mettiamo le piccole mani bianche di Bonnie sullo stantuffo. Non parlare di queste cose, dice Doc. Le microspie. questi erano Bauhaus con il brano Third Angle, dopo la lettura di I Sabotatori di Edward Ebbey, che ha seguito la caduta di connessione che ci siamo chiamati, l'abbiamo preannunciata, però mentre la preannunciavamo già era caduta perché si stava leggendo una notizia e sappiamo che su tali notizie la connessione cade magicamente. Allora, prossima notizia di controinformazione arriva dal Messico, dove ci sono degli aggiornamenti sui tre compagni arrestati, le due compagne Amelie Fallon e il compagno Carlos. Allora, la mattina del 16 maggio alle compagne Amelie e Fallon è stato notificato che sarebbero state portate al reclusorio Sur a testimoniare sulle nuove accuse sotto l'ordine federale. Verso le 8 furono trasferite al tribunale, dove hanno incontrato il compagno Carlos. Dopo aver aspettato quasi tutta la mattina, sono stati finalmente informati che si trattava di un mandato di arresto per il reato di danno a proprietà privata per quanto riguarda l'incendio doloso in un edificio con alcune persone che si trovavano all'interno. I tre compagni non hanno rilasciato alcuna dichiarazione e una volta che l'udienza era finita sono stati ricondotti alle carceri dove sono detenuti dal febbraio 2014, Carlos al reclusorio Oriente, Amelie e Fallon a Santa Marta. Ciò significa che da ora in poi i compagni affronteranno due procedimenti penali, uno sotto la giurisdizione locale per i reati di attacchi alla pace pubblica e danni aggravati, come l'attacco in una concessionaria Nissan, per i quali non hanno il diritto della libertà provvisoria, e un processo federale per il reato di danneggiamento a proprietà privata, attacco alla segreteria delle comunicazioni e dei trasporti. I compagni stanno bene e sono stati in grado di dire che non sono stati picchiati durante il trasferimento. La prossima udienza del procedimento locale è fissata per il 19 maggio, quindi oggi, e quindi a breve aspettiamo anche aggiornamenti su questa udienza, mentre la data dell'udienza federale sarà determinata domenica 18 maggio, quindi è stata determinata ieri. Ancora una volta chiediamo la solidarietà con i compagni Amelie, Fallon e Carlos, che sono sequestrati dallo Stato messicano dal 5 gennaio. L'unico terrorista è lo Stato capitale. Nessun colpevole, nessuno innocente, libertà per tutti. Chi vuole scrivere compagni anarchici, Amelie, Fallon e Carlos, trova gli indirizzi sotto l'articolo che si trova su Radiazione, l'ultimo articolo postato oggi, proprio un paio d'ore prima della diretta d'azione. Ora ci ascoltiamo un brano, le Saranox con il brano Il Drop of Time, e poi dopo si ritorna qui con il racconto dei Sabotatori di Edward Ebbey. We'll be right back. I turisti estivi rombavano a meno di un chilometro sui loro furgoni da 2 tonnellate, rimorchiando roulotte Airstream, cabinati su ruoti, dunbaggy, jeep con cerchioni Magnum o su Winnebago con Kawasaki da cross legate dietro e gommone sul tetto. I 4 sabotatori salutarono con la mano. Signore dei capelli azzurri con occhiali da sole da gatto su montature dorate contraccambiarono il saluto mostrando dentature smaglianti. Tornati al campeggio del Navajo National Monument sotto i pini sussurranti, aprirono le loro mappe sul tavolino da picnic e cominciarono ad architettare i piani. Scintillava e tremava sul fuoco, tenendo in caldo la caffettiera. Dolce e sottile fragranza del legno di ginepro, aroma di caffè, odore di qualcos'altro. Haidak sentì di nuovo odore, quell'odore di erba, e lanciò un'occhiata ad Abzug. Butta quel cazzo di spino nel fuoco! Tu stai bevendo la birra, Haidak. Io bevo sempre la birra, la mia tolleranza alla birra è studiata in tutto il mondo. La birra non intacca la mia capacità di giudizio, inoltre è legale. Ci manca proprio di farci beccare per la marijuana. Se uno di quei ranger del cazzo passa di qui quasi ogni minuto, quell'erba che brucia la puoi sentire a 5 chilometri, lui che dice? Abzug Bonny fece spallucce. Ehi Doc, ma tu non hai nessun controllo su questa donna, falle gettare quel cazzo di spino nel fuoco. Va bene. E Bonnie spense il suo piccolo spinello sul piano del tavolino. Non era finito e quindi infilò la cicca nel tubetto del Tampax. Taglia piccola, santo cielo, sei tutto in agitazione, ma che cos'hai che non va? Che cos'hai tu che non va? Disse Haidak. Doc fissava pensoso il bosco notturno. Smith si guardava le unghie. Bonny abbassò lo sguardo sul tavolo. Io sono spaventata, disse. Un momento di silenzio imbarazzato. Beh, merda, anch'io sono spaventato, disse Haida, che è per questo che dobbiamo stare molto, ma molto, ma molto attenti. Va bene, intervenne Smith. Può bastare. Andiamo avanti con il programma della sera. Il sole se ne sta andando, continuò. La luna vecchia salirà intorno a mezzanotte. Quello è il segnale, quindi disse Haidak. E Doc cominciò a canticchiare sull'aria di The Wearing of the Green. Oh, ascolta, Sean O'Farrell, preparati subito in fretta perché le nostre Lancer devono essere in resta a levarsi della luna. Giusto. Questa volta però ricordiamoci di mettere quei filtri blu sulle torce, disse Haidak un po' claudicante nel tono. A che servono? Rendono il fascio meno intenso, più vicino al plenilunio. Allungami quella mappa, Doc. Riesaminarono ancora una volta le varie possibilità. Haidak, desiderando trarre il massimo dal loro chiaro vantaggio, la sorpresa, perorava la causa del grande slam. Tirare via i binari della ferrovia, il treno del carbone, le pale elettriche, le torri di immagazzinaggio e il nastro trasportatori, tutti in una volta, insieme, tutti insieme al nascere della luna. Non avremo più, spiegò, un'occasione del genere, presto. La linea, infatti, sarebbe stata sorvegliata, uomini armati avrebbero pattugliato le strade, gli elicotteri sarebbero stati lì a fare segni nel cielo. Non ci sarà mai più un'occasione altrettanto brillante. Haidak bloccava impietosamente sul nascere ogni obiezione. Ascoltate, disse. È semplice. Miniamo il ponte sopra il Caibito Canyon. Abzug non deve montare la guardia da sola tutta la notte. Mettiamo una di quelle cariche con il dispositivo di sgancio collegato alla pressione. Quando la locomotiva ci finisce contro, BAM! Ma in questo modo ponte, binari e treno salteranno in un colpo solo. Probabilmente anche la linea elettrica, altrimenti di quella stronza ci occuperemo più tardi con la motosega di Doc, come diceva Seldon. Ma nel frattempo, però, torniamo alle miniere. Piazzo le cariche che ho nella borsa dell'autorimessa di quelle scavatrici. Caplam! È fuori uso per mesi. Tempi morti, amici. Mentre io faccio questo, il vecchio Doc Abzug e tu Smith, ma voi ragazzi, caricherete su un nastro trasportatore una cassa di Red Cross Extra e una miccia da 5 minuti e li manderete su alle torri. Capum! Ritornerete poi in questo campeggio, rimanete lì qualche giorno, vi fate qualche escursione, vedete Kids Hill, Batata King e poi ve ne andate tranquillamente senza attirare l'attenzione. State attenti alla polizia di Stato che si traveste come hippie navajo. Assicuratevi di essere puliti, niente erba del cazzo in macchina. Comportatevi da turisti lavoranti. Abzug, per l'amor del cielo, mettiti addosso un vestito, Doc. Beh, di Doc non dobbiamo preoccuparci. Lui, con la tutela al lavoro, è perfetto. Doc aggrottò le sopracciglia con espressione severa. E poi buttate via quella targa della California, sorridete con dolcezza al poliziotto gentile se vi ferma, cercate di ricordare che il poliziotto è vostro amico, siate educati con il figlio di puttana e poi ci incontreremo tutti tra un mese quando le acque si saranno calmate su nella regione dei canyon, perché là c'è ancora un importante cazzo di lavoro da fare. Ci sono domande? Tutta questa violenza, disse Doc, ma noi quattro siamo tutte persone rispettose della legge. Beh, che cosa c'è di più americano della violenza? Voleva sapere Haydak. La violenza è americana quanto la torta di mele. Chop suey, disse Bonnie. Chili con carne, bagel e salmone. Non mi piace maneggiare la dinamite, disse Smith. Chi piazzerà la carica per le torri di caricamento mentre tu starai a 30 km a est a cazzeggiare con quelle scavatrici? Ah, Haydak, disse. La carica, l'esplosivo, la piazzerò io. Tutto quello che tu e Doc dovete fare è metterla sul nastro e accendere la miccia mentre Abzug tiene d'occhio la situazione. Poi salite in macchina e ve ne andate. Al momento dell'esplosione sarete già lontani 3 km sulla strada che vi porta qui. Dovete solo essere sicuri al 100% che la miccia sia accesa. Haydak li guardò, il fuoco crepitava tranquillamente e di nuovo venne il tramonto. George, disse Doc, ma tu sei così entusiasta che mi spaventi. Haydak fece uno dei suoi sorrisi un po' barbari, prendendolo come un complimento. Anche io spavento me stesso, disse. Sì, e comunque tu non hai pensato a tutto, disse Bonnie. Tanto per dirne una, Lawrence, Arizona, quando... Adesso chiamami Rudolph il russo. E beh, quando è che viaggiano i treni, Rudolph? Quanti uomini ci sono nella squadra? E quelli che fine faranno? Se il treno arriva a quel ponte prima che riusciamo a mettere in pratica il resto del piano, che succede? Lì ci deve essere il tuo elemento di sorpresa. Ah. Io ho pensato a tutto. I treni carichi lasciano la Black Mesa Junction due volte al giorno, alle 6 e alle 18. I treni scarichi lasciano il deposito di Page a mezzogiorno e a mezzanotte. Così un treno passa in un determinato punto sui binari ogni 6 ore. Il ponte sul Caibito Canyon è a circa metà strada tra i due terminali. I treni carichi ci passano sopra intorno alle 8 e alle 20. Parla come mangi, non capisco niente. Sono le 8 del mattino e le 8 di sera. Così ci sediamo lassù intorno alle 8 del mattino, guardiamo il treno che se ne va e piazziamo la nostra mina. Abbiamo 6 ore prima che il treno scarico di ritorno da Page ci finisca sopra. Torneremo qui di corsa, prepareremo tutto. Alle 2 del mattino precise scateneremo i fuochi d'artificio giusto nel momento in cui il treno vuoto starà precipitando nel canyon. 3 incidenti separati in 3 località separate. I federali penseranno ad una rivolta indiana, in verità. E allora scaricheremo la colpa sugli indiani, disse Doc. Tutti amano gli indiani. Adesso che sono addomesticati, adesso li amano. E così lasceremo qualche indizio qua e là. Bottiglie di tokai, fumetti, bottiglie di brandy alla pesca, qualche scritta Yatabà e via. Sulla spalla del ponte la stampa la metterà a giro dura e una decina di organizzazioni indiani faranno a gara per rivendicare la paternità. Non hai risposto a tutte le domande, disse Bonnie. Che ne sarà degli uomini sul treno? Ok, rispose Haydak. Qui viene il punto che a voi altri pacifisti dovrebbe piacere di più. Quei treni per il carbone sono automatici, non c'è nessuna squadra a bordo, non c'è nessuno a bordo. Sei sicuro di quel che dici? Chiese Doc. Io leggo i giornali. E questa cosa l'ha letta su un giornale. Sentite. La compagnia l'ha menata per un anno e mezzo su questi treni. Computerizzati, nessun uomo ha detto al controllo il primo treno per il carbone automatizzato del mondo, bla bla bla. E nemmeno un osservatore a bordo. Haida che si do. Forse ci sarà stato un osservatore quando hanno fatto i primi percorsi, disse, ma adesso no, è da circa un anno che questi treni operano senza il minimo intoppo. Ci volevamo noi. Non mi convince, disse Smith. Ma Cristo di Dio, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Un succhiacapri di Nuttall cominciò ad emettere nell'oscurità dei pini il suo caratteristico trillo. Sapete cosa vorrei? Disse Bonnie. Vorrei. Qui subito un bel cono Baskin Robbins con doppia pallina di fragola. E sapete cosa vorrei io? Disse il dottor Service. Vorrei, sì, lo sappiamo, disse Bonnie. Giusto, indovinato, con l'apparecchio per i denti chinata sulla vaniglia francese o sulla ciliegina. Beh, in mezzo alle gambe, niente di più prevedibile di un vecchio libidinoso. È facile riconoscerlo, la lampo nei pantaloni sempre dimenticata aperta. Ci fu una pausa significativa. Tre uomini al buio sotto il tavolo da picnic raggiunsero furtivamente il davanti dei loro pantaloni. Poi si sentì il suono di una lampo che si chiudeva dalla piazzola del campeggio più vicina. Oltre le tre vuote giungeva il suono chiaro e distinto di un colpo d'accetta e il trillo del succhiacapre. Poi un'altra cosa, disse Bonnie, e questa è seria, uomini, aprite bene le orecchie. Che cazzo di senso può mai avere far saltare un ponte ferroviario e un treno per il carbone se noi non stiamo qui a goderci lo spettacolo? Ehi, rispondete un po' a questa domanda, geni maschi della valle. Ben detto, disse allora il dottor Service Doc. questi erano Covenant con il brano Dermin, ora si ripassa alla controinformazione, si resta in Sud America. Prima abbiamo letto una notizia dal Messico, gli aggiornamenti di Amelie, Fallon e Carlos. Ora andiamo in Cile con gli aggiornamenti sui compagni che sono stati arrestati durante la giornata del giovane combattente. Avevamo letto della liberazione degli altri nell'ultima diretta, ora è libero anche Javier. Allora, leggiamo lo scritto facendo una piccola... la diciamo dopo, va. Allora, oggi verso le 11.30 è iniziata l'udienza di revisione per le misure cautelari per le due persone che erano ancora in carcere per gli eventi del 29 marzo nella zona di La Victoria. In questa udienza i due accusati per l'attacco con Molotov ad un bus della Transantiago nel caso di Miguel e di attacco con Molotov ad una pattuglia della polizia in caso di Javier hanno rivendicato le responsabilità per questi fatti ed hanno accettato un processo con rito abbreviato. La sentenza del giudice del decimo tribunale di garanzia ha proclamato libertà vigilata per entrambi per i prossimi 541 giorni, sottraendo da questi 45 giorni che hanno già trascorso preventivamente in carcere. Questo pomeriggio Javier e Miguel lasceranno il recinto della prigione di Santiago 1, in cui sono stati detenuti per un mese e mezzo e possono tornare a incontrare i loro amici. Probabilmente questa sentenza verrà impugnata dagli avvocati dell'intendenza di Santiago, che non sono rimasti soddisfatti da ciò che il giudice di garanzia ha stabilito. Apprezziamo la solidarietà che è stata mostrata attraverso la campagna in cui sono stati raccolti i soldi e tutti i tipi di azione che hanno rivendicato i nostri compagni. Intendiamo la solidarietà multiforme come una parte fondamentale nella nostra lotta, che ci ha riempito di gioia, e siamo lieti di aver potuto avere il sostegno di tante persone e in così tanti modi diversi. Continuiamo a solidarizzare con Javier, Prats e Crystal e le loro famiglie, contenti per il ritorno del nostro fratello e le nostre sorelle. Ma siamo consci che questo, né questa causa, né la lotta contro tutte le forme di autorità, termina solo perché i nostri compagni sono di nuovo liberi. Contro questa società carceraria, Paz, Javier e Crystal presenti il gruppo Solidarietà con gli arrestati il 29 marzo. Io ho messo una nota introduttiva al testo, perché qua si ringrazia, in questo testo si ringrazia per la solidarietà che è stata data ai compagni detenuti. Allora, non si dovrebbe mai ringraziare, a parte, a meno che non lo facciano i compagni detenuti una volta usciti, a ringraziare per la solidarietà che hanno ricevuto, ma persone esterne come il gruppo di solidarietà non dovrebbero mai ringraziare. La solidarietà è una cosa basilare nella lotta anarchica. Sappiamo che cioè, chi ha delle idee, chi affronta determinato tipo di lotta, prima o poi ha a che fare con la repressione. Quindi è un istinto che ci muove, e quindi è normale che la solidarietà venga naturale. Quindi la prossima volta evitiamo di ringraziare per la solidarietà ricevuta. Ora ci ascoltiamo un brano, The Futureheads, con il brano Worry About It Later, e poi si ritorna qui con il racconto dei sabotatori di Edward Avery. Bye. duetti e anche minuetti. Doc, disse Seldon Sin Smith, quello che io vorrei sapere in via del tutto confidenziale è... che cos'è che sai esattamente di questo George Washington Haydock? Doc aggrottò le sopracciglia e disse: non molto più di te. Beh, parla come un duro, Doc. Vuol far saltare tutto quello che vede. Pensi che possa essere uno di quegli... come li chiami? Agenti provocatori. Doc rifletté un istante. Seldon, disse, possiamo fidarci di George. È onesto. Proprio perché così si capisce che è onesto. E Doc fece un'altra pausa. E parla in quel modo perché... perché è pieno di rabbia. George è contorto, ma contorto nel modo giusto. E noi, di questo modo giusto, abbiamo bisogno di lui, Seldon. Smith ponderò queste osservazioni, poi, imbarazzato, disse: Doc, non mi vergogno a dirti che la stessa domanda me la facevo anche su di te. Sei il più anziano di noi, quello che vede di gran lunga più chiaro delle cose, e c'hai soldi. Sei un dottore, e i dottori non si immagina che si comportino come te. Toccava a Doc riflettere. Riflettendo, disse: stai attento a non calpestare quella criptanta, piccolo stronzo spinoso. Si fermò per osservarla meglio. Arizonica, confermò Smith. Sì, è una pianta arizonica, e quindi tirarono in avanti. Ma a proposito della tua domanda, si finisce, dico, per vedere troppi tessuti violentati sotto il microscopio. Tutte quelle primitive cellule ematiche che si sviluppano come una piaga, piastrine divorate, ragazzi e ragazze nel fiore degli anni, proprio come Haydock o Bonnie, che sanguinano a morte senza nessuna ferita, leucemia acuta in aumento, tumore ai polmoni. Io credo che il male sia nell'alimentazione, nel rumore, nell'affollamento, nello stress, nell'acqua e nell'aria. Io ho visto troppe di queste cose, Seldon, ma se li lasciamo andare avanti con i loro piani, beh, ecco, le cose non potranno che peggiorare. Ecco perché. Ed è per questo che sei qui. Esattamente. Ed esattamente dico che nei gruppi affini i dubbi ben vengano. Poi bisogna fidarsi delle risposte. Haida Kadapzuk. Che dici di Smith? Che dico di lui? Perché quello cerca sempre di mettermi i bastoni tra le ruote, di mandare all'aria i miei piani? I tuoi piani? Ma che significa i tuoi piani? Arrogante, egocentrico, coglione, i tuoi piani? E noi, i nostri piani? Ma io non so se posso fidarmi di lui. Ah, così non ti fidi di lui, va bene. Allora stammi a sentire, Haydock, lui è l'unica persona decente in questo gruppo, squadra patologica, è l'unico di cui mi fido. E Doc? Ah, Doc! È solo un ragazzino del tutto innocente, e lui pensa di partecipare ad una specie di crociata. Haydock la guardò severo. Hai ragione. Che cos'è invece? Tu perché sei qui, Bonnie? Haydock, guarda, questa è la prima volta che mi chiami per nome. Cazzate. No, è vero, è la prima volta. Beh, allora merda, cercherò di fare più attenzione in futuro. Se ci sarà un futuro. Ah, magari del cazzo, ma un futuro ci sarà. Continuo a pensare che potremmo cavarcela meglio senza quella rompicoglioni. Sei pazzo, George? È lei quello che rende questa follia dei ragazzini comunisti una cosa degna di uomini entrati nell'età adulta dell'individualismo? Sono pazzi tutti e due, Doc. Calma. Sono una coppia di strampalati, eccentrici, disadattati, anacronistici e stronzi. Calma. Quei due sono solo dei bravi ragazzi, Goodfellas. Un po' strani, ma buoni. Prendi il capitano Smith, solido come un massiccio e resistente, come un cesso pubblico. Ah, il giovane George, tutto fuoco e passione, uno psicopatico in buona salute. Il mostro della fogna nera. Lo so, Bonnie, lui è un tipo difficile, ma dobbiamo essere pazienti. Probabilmente siamo gli unici amici che ha. Se hai un amico come quello del nemico, puoi tranquillamente farne a meno. È vero. Ma noi dobbiamo aiutarlo a capire che non siamo come gli altri. Sì, sicuro, sono sicuro che questo deve averla già sentita. E allora il capitano Smith, oh, un bravo uomo, il migliore, un americano a denominazione di origine controllata. Beh, non sarei mica un po' razzista. No, è un conservatore, un contadino, un montanaro dello Utah. Gli uomini migliori vengono dalle montagne, dicono loro, anche dal mare. Permettimi di insistere. Gli uomini migliori, come i vini migliori, vengono dalle alture. E anche sessista, le donne migliori invece da dove vengono? Da Dio, merda, dal Bronx, non lo so, dalla camera da letto, dalla cucina, forse, chi lo sa, chi importa. Io mi sono stancato di questa vecchia diatriba. E invece ti converrebbe abituarti, invece, caro mio, mi sa che ci avete intorno ancora per un po'. Bonnie, mia incorreggibile testona, sono solo felice di quanto ho sentito. Meglio il mondo freddo e amaro con la donna che il paradiso senza di lei. Girati. Ma è proprio questo che intendo. Girati, vai al diavolo, girati da solo. Il satiro viene. Il satiro può andare a farsi un bel giretto sulla luna. Adesso, Bonnie, Doc, devi cambiare i modi. Vuoi dire che c'è un altro modo? No, non è questo che volevo dire. Ma non mi ascolti mai quando parlo. Io ti ascolto sempre. Che cosa ho detto? Le solite cose. Capisco, Doc, che c'è qualcosa che fai meglio a dirti. E Doc disse, ma io non penso di volerla sentire. Seldon, ci sai fare con le pentole, cazzo, ma te l'ha ordinato il medico di usare quei cazzo di fagioli ogni volta che fai da mangiare? Quei fagioli, George, sono l'alimento base. Cos'è? Hai lo stomaco delicato? Adesso taci e mangi i tuoi fagioli. E beh, quando è che inventeranno i fagioli che non fanno scorreggiare? Ah, ti assicuro che là i tecnici ci stanno lavorando sopra. Ma loro hanno tutto. Hanno l'organizzazione, il controllo, le comunicazioni, l'esercito, la polizia, i servizi segreti. Hanno le grandi macchine, hanno la legge, le droghe, le prigioni, i tribunali, i giudici e le galere. Sono dei giganti e noi dei lillipuziani. Loro, dinosauri, dinosauri in ferro battuto, non hanno un cazzo di possibilità contro di noi. Noi siamo in quattro, loro sono 4 milioni mettendoci pure l'aeronautica, e questo sarebbe uno scontro. Bonnie, ma tu pensi che siamo soli? Io sarei invece disposto a scommettere, ascolta, sarei disposto a scommettere che esattamente in questo preciso istante ci sono altri tipi al buio che stanno facendo il tipo di lavoro che stiamo facendo noi in tutto il paese, piccole cellule di 2 o 3 ragazzi che stanno lottando. Stai parlando di un movimento nazionale ben organizzato? E no! Nessuna organizzazione, nessuno sa dell'esistenza degli altri. È proprio per questo che non possono fermarci. E perché ci mettono la sordina? Ecco, perché non vogliono che la voce cominci a circolare? L'ex berretto verde. Come facciamo a sapere che non sei un infiltrato, Hajdak? Non potete. Lo sei? Chissà, forse. E tu come fai a escludere che lo sia io? Ti ho studiato e ti sei sbagliato? E per questo che ho il coltello. Ti andrebbe di baciarmi allora? Sì, cazzo, allora sì. E che cosa stai aspettando? Beh, merda, se la donna è Doc, col cavolo. Io sono mia, non sono la donna di Doc. Sì, beh, ok, però non lo so. Beh, io lo so, adesso baciami, brutto bastardo. Sì? No, credo di no. Perché no? Perché prima devo parlarne con Doc. Ah, vai al diavolo, George. Ah, io ci sono già andato prima, e molto prima, in Vietnam. Io ho vissuto con il diavolo. Tu sei un vigliacco. Sì, è vero, sono un vigliacco. Beh, Hajdak, hai avuto la tua occasione e te la sei bruciata. Adesso suda. Sudare? Io non ho mai sudato per una donna in tutta la mia vita. Non ho mai conosciuto una donna per cui valesse la pena sudare. Ci sono alcune cazzutissime cose che sono più importanti delle donne, capisci? Se non fosse per le donne, tu non esisteresti nemmeno. Non ho detto che sono inutili, ho detto che ci sono cose più importanti, tipo le pistole. Ho una buona chiave dinamometrica. Ho un verricello che funziona come si deve. Uno strumento. Oh Dio mio, c'è un'intera nidiata, sono circondata da idioti, tutti e tre pretesi cowboy, porci del XIX secolo, anacronismi del XVIII secolo, disadattati del XVII secolo, completamente fuori dal tempo, fuori da di testa, fuori di tutto e da tutto, sei un cazzo di obsoleto, Haydak. Ah. Come una regolazione delle valvole fatta bene, come, beh, insomma, come avere un tris piuttosto che una coppia, una doppia coppia, come superato, un vecchio di 25 anni, come un buon vecchio cane per la caccia ai procioni, come un bungalow nel bosco dove un uomo può pisciare dalla veranda. Aspetta un attimo, dove un uomo può pisciare dalla veranda quando cazzo gli pare. E si bloccò, incapace di trovare altre raggelanti similitudini. Abzug gli offrì il sorriso in cui era specializzata, il sorriso sprezzante. Haydak, la storia ti ha superato. E con uno svolazzo della sua splendida chioma gli voltò la schiena. Demolito e silenzioso la guardò allontanarsi. Più tardi, infilandosi nel suo unto sacco a pelo sotto le fiere stelle intermittenti, gli venne in mente, fuori tempo massimo, la risposta che avrebbe dovuto dare. La diversità di oggi diventa la moda di domani, ragazza. Fight, I show you right. I'm your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plate, I give you light. On my beats, on my treats. Stamp and stopping, stamping off. Stamina. Stamp and stopping, stamping off. Stamping off. Allora, con oggi abbiamo finito la lettura dei sabotatori di Edward Ebb e ora leggiamo l'ultima notizia di controinformazione e poi dopo finisce qui la diretta d'azione. Abbiamo deciso di leggerla anche se si era deciso un attimo di finire qui con l'orario preciso alle 19, però vale la pena, vale la pena, perché comunque si ricollega proprio all'ultimo capitolo letto sui sabotatori. Sydney, Australia, cellula fai rivendica auto incendiate. Leggiamo il testo rivendicativo. Nelle prime ore di domenica 18 maggio abbiamo fatto un giro per le strade di Volara, quartiere molto ricco di Sydney, alla ricerca di obiettivi adatti per esprimere la nostra rabbia. Non ci è voluto molto per trovare ciò che stavamo cercando. Abbiamo bruciato 3 auto di lusso, una BMW, una Nissan X-Trail in Queen Street e una Lexus in Mancur Street. Dedichiamo questa azione ai nostri compagni della cellula Firewolves e anche alla cellula Felicity Unrider a Melbourne, a tutti i combattenti della FAI FRI ovunque e a tutti gli anarchici e combattenti insurrezionalisti prigionieri che lottano con dignità dietro le spade dell'ingiustizia in ogni luogo, per la totale distruzione di ogni esistenza. Anarcho Wilding Cell, Federazione Anarchica Informale, Federazione Fronte Rivoluzionaria Internazionale. E con questo testo chiudiamo la diretta d'azione di oggi. Diamo l'appuntamento per la prossima, che è venerdì 23 maggio, dove ci sarà solo controinformazione. Invece per la lettura dobbiamo aspettare ancora il lunedì 26 maggio. Quindi appuntamento per 23, per ora per il 23 maggio con controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione. Ovviamente essendoci da solo posso avere un pochino di tempo e allungarmi nella diretta per quanto riguarda le riflessioni e la provocazione. E anche come in Australia, così in Grecia hanno trovato i bancomat, in Australia le macchine, qui da noi non c'è proprio niente. Da noi c'è il vuoto, c'è la carogna. C'è la carogna. Si parla della carogna. Ok, allora appuntamento a venerdì prossimo, ore 17, 15.45 per chi vuole ascoltare la prediretta con la playlist musicale. Radio Azione. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org.